ci credevo. Ho detto è lei o no? Tra tanti amici non ti aspettavo qui. Solita sera, la solita tribù. Tu che mi dici, stai sempre con i tuoi e ti accompagna un'emozione forte, e ti accompagnava ancora la solita canzone. Ma quanto tempo è ancora, ti fai sentire dentro? Quanto tempo è ancora, rimbalzi tra i miei sensi? Quanto tempo è ancora, ti metti proprio al centro? Quanto tempo è ancora, mi viene da star male. Sento che se te ne vai adesso io potrei morire. Che se te ne vai adesso, ancora tu l'amore. Sono anche i tuoi, guardali bene, non cambieranno mai. Saluti e baci, poi prendi e te ne vai. Sì, forse è meglio, così non mi vedrai. Piangere, poi ridere, poi prenderti un po' in giro, fingere davanti a tutti di aver dimenticato. Ma quanto tempo è ancora, ti fai sentire dentro? Quanto tempo è ancora, rimbalzi tra i miei sensi? Quanto tempo è ancora, ti metti sempre al centro? Quanto tempo è ancora, ancora tu l'amore. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Quanto tempo è ancora, ti fai sentire dentro? Quanto tempo è ancora, rimbalzi tra i miei sensi? Quanto tempo è ancora, dimetti se